Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Sono giornate intense per il mondo dei trasporti, queste che precedono la pausa estiva, e non soltanto per le giornate da bollino nero sulle strade. Fra incontri, riunioni e provvedimenti governativi dell'ultima ora, sono numerosi infatti i temi affrontati e molti quelli ancora sul tavolo di associazioni di categoria e parti politiche, su cui si tornerà a discutere già dalla prossima settimana. Il Ministero dei Trasporti ha da poco diffuso il nuovo decreto per i contributi alla formazione nel settore dell'autotrasporto, che prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro per il biennio 2016-2017. Restano però aperte questioni come la defiscalizzazione del costo del lavoro per i conducenti che operano all'estero o come la necessità di conoscere i tempi degli investimenti. Sulla lista delle cose da fare, inoltre, compaiono le problematiche legate all'entrata in vigore dell'obbligo di pesatura dei container, un provvedimento che già in questa sua prima fase sperimentale sta mostrando non poche criticità. Proprio su questo tema, il prossimo 4 agosto si terrà una riunione fra tutte le parti interessate per tentare di trovare una soluzione comune. Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Un mondo che in estate praticamente non va in vacanza. Anzi, ci sono alcuni comparti che in questo periodo lavorano addirittura di più per garantire gli approvvigionamenti alle località vacanziere. E questo di fine luglio è anche un periodo particolarmente intenso dal punto di vista delle scelte che riguardano il settore. Tanti i nodi da sciogliere o semplicemente i punti da definire nel dettaglio, tanto che, come avete ascoltato dalla scheda iniziale, si susseguono in questi giorni incontri e riunioni. Per cercare di capire quali sono i temi sul tavolo, il nostro ospite oggi, Paolo Uggè, presidente di Conftrasporto, vicepresidente di Conf Commercio. Uggè, tre tematiche sono un po' al centro dell'attenzione, sono state affrontate nel corso di un incontro la scorsa settimana con il sottosegretario ai trasporti Vicari, che riguardano il bonus per il treno, quello per il mare, la defiscalizzazione del costo del lavoro. Cominciamo con un tema che sicuramente tocca da vicino molti cittadini, appunto il treno e il mare. Come far sì che una quota di traffico sempre più importante utilizzi anche queste modalità alternative? Ma innanzitutto dobbiamo dire che si sta concludendo, e questo è un fatto positivo, così ci è stato riferito nell'incontro, la verifica che a livello comunitario le autorità competenti stanno realizzando per verificare che le misure adottate nel nostro Paese siano compatibili con quelle di natura comunitaria. Non appena sarà dato il via ufficiale, quindi il nulla osta a livello comunitario, i decreti sono di fatto già predisposti, quindi il Ministero ha lavorato secondo le indicazioni che avevamo fornito anche noi, mondo che rappresenta gli interessi delle imprese di autotrasporto, e quindi per il bonus autostrade del mare il bonus verrà messo a disposizione degli armatori, che avranno però l'obbligo di retrocedere l'80% alle imprese di autotrasporto. E per quanto riguarda invece il bonus ferroviario, è passata la nostra linea, per la quale due terzi delle risorse messe a disposizione debbono essere destinate a traffici superiori ai 150 km, e quindi si va a finanziare realmente lo spostamento dalla gomma al ferro e non si va a finanziare operazioni che oggi sono già in essere. Penso per esempio ai trasporti dal porto a qualche interporto. Quindi provvedimenti che si avviano ad una piena operatività. C'è invece un tema assolutamente centrale, che è quello del cabotaggio irregolare, dell'abusivismo, dell'irregolarità di questo settore. Qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che lavora proprio contro forme di distacco abusivo. Qual è la posizione del mondo dell'autotrasporto su questa iniziativa? Allora, noi abbiamo chiesto al governo, che si è impegnato a lavorare in tal senso e a presentarci nei primi giorni di settembre una proposta in merito, chiedendo sostanzialmente di introdurre un modello simile a quello applicato e deciso dal governo francese. Il decreto legislativo che il governo ha approvato contiene diverse norme che vanno in quella direzione, e anche da questo punto di vista non possiamo che esprimere una nostra soddisfazione. Noi abbiamo sempre detto che bisogna rispettare le regole, le imprese regolari devono poter operare senza correre il rischio di subire la concorrenza di quelle che regolari non lo sono. Su tale linea si è incentrata la nostra politica di modifica dei compiti dell'albo, e in questo decreto ci sono tanti elementi, ne cito qualcuno. Il principio della responsabilità condivisa, quello previsto dall'articolo 83 bis, viene esteso anche nel caso di utilizzo di lavoratori derivanti da distacchi o da somministrazioni che non sono regolarmente retribuiti, così come prevede la norma europea e la norma nazionale. Inoltre si dovrà notificare al Ministero del Lavoro, dovrà emanare il Ministero del Lavoro una norma esplicativa in tal senso, un decreto ministeriale immagino, dove coloro che distaccano del personale dovranno notificare prima al Ministero del Lavoro il distacco di questo personale. Quindi si sta creando un sistema attraverso il quale coloro che pensano di poter sfruttare i lavoratori e fare concorrenza irregolare ai colleghi che invece operano nel rispetto delle disposizioni vigenti dovrebbe ricevere un duro colpo. Certo, c'è un elemento che deve essere tenuto in considerazione. Esiste e rimane con forza la necessità di controlli mirati. Su quello noi chiaramente non demorderemo. Certo. A proposito di controlli mirati, c'è però un dato molto interessante che riguarda i controlli, perché c'è un boom di infrazioni legate al cabotaggio illegale, quindi più 63%, ma c'è una forte riduzione dell'abusivismo, meno 83%. Come legge lei questo dato? La diminuzione che si è registrata nei fenomeni di abusivismo vuol dire che l'albo fornisce dei documenti attraverso i quali i committenti sanno individuare quelle che sono le imprese regolari, vuol dire che la certezza della possibilità del controllo, questo era il mio vecchio slogan che ho sempre usato per sostenere questa nostra idea, sta determinando negli operatori la convinzione che se in un controllo viene accertato un trasporto abusivo, ne risponde non solo l'autotrasportatore ma anche il committente. Quindi il concetto della responsabilità condivisa sta prendendo piede. Esatto. Certo, è associato al concetto beccariano della certezza della pena, come dice lei, effettivamente produce dei risultati sicuramente interessanti. Un'ultima battuta riguarda invece i porti. C'è un grosso dibattito in questo momento che è legato alla pesatura dei container, un obbligo che ci arriva dall'Europa, che però ha causato qualche difficoltà all'interno dei porti italiani. Ecco, dal suo osservatorio, qual è la situazione? Tra l'altro ricordiamo che proprio la settimana prossima, il 4 agosto, ci sarà una riunione operativa su questo tema. Innanzitutto bisogna dire che siamo in una fase di transizione, perché nel dare applicazione alla norma si è stabilito un periodo transitorio nel quale le imprese debbono attrezzarsi per rendersi adeguate a quelle che sono le nuove disposizioni. Le segnalazioni che ci stanno arrivando ci fanno ben sperare che questi adeguamenti si realizzeranno abbastanza rapidamente. Ora, la riunione del 4 che è stata convocata prontamente dalla sottosegretaria, a cui abbiamo chiesto un coinvolgimento e un confronto, perché se un elemento di negatività bisogna evidenziare è che l'autotrasporto non è stato coinvolto nelle riunioni che sono state realizzate tra capitanerie di porto, tra realtà che operano nei porti, tra caricatori, e quindi probabilmente ci si è dimenticati che coloro che trasportano i container dai caricatori ai terminal sono proprio gli autotrasportatori. Pare che questa vicenda, appunto questa dimenticanza, venga superata il 4. Ci dicono le notizie che ci arrivano dai nostri territoriali che la questione lentamente sta andando verso la normalità. Restano alcuni punti, in particolare Venezia,